And now let's follow Sarah, Lorenzo and Andrea into the pavilion. Ascolti le parole nuove e le ripeta dopo la seconda volta. Siamo arrivati. We've arrived. Siamo arrivati. Finalmente. At last. Finalmente. Che è successo? What happened? Che è successo? Hai ragione. You're right. Hai ragione. Una lunga storia. A long story. Una lunga storia. Come al solito. As usual. Come al solito. E come al solito ripassi il nuovo vocabolario e quando si sente sicuro continui con il prossimo dialogo nel padiglione.